lei vorrebbe che Berlusconi crepasse, diciamo la verità. Sì, ma scusi una roba, ma non è la prima volta che dico queste cose, perché ho scritto 2 settimane fa sul mio sito un articolo dal titolo "Datemi una pistola, un euro e sistemo il paese". Cioè, mi scusi, mi ripete un attimo questo concetto? Ho fatto un articolo, titolo sì. "Datemi una pistola, un euro e vi sistemo il paese". Cioè, lei sarebbe disposto a prendere una pistola, ricevere una pistola ed ammazzare Berlusconi? No, allora, mi spiego. Un euro mi serviva per accendere la candela alla Madonna perché il colpo riuscisse bene. E la cosa più grave è quello di uccidere fisicamente Berlusconi. Beh, perché diventerebbe un martire, un simbolo. No, mi scusi, lei sta parlando sul serio? Come sul serio? Cioè, lei, certo. lei ha in mente, cioè lei lo farebbe, ucciderebbe Berlusconi? No, ho detto che non bisogna farlo. Perché? Per evitare che diventa un martire, un simbolo. Solo per questo? Certo, anche perché poi naturalmente tutti i paesi avrebbero un monumento Berlusconi, naturalmente la statua dovrebbe essere nuda, no? Con il pene molto eretto, in modo tale che possa fare anche da portaombrello. Però dico, a un certo punto il rischio è questo, che diventi un simbolo, che diventi veramente, poi avremo in tutta Italia le immaginette, no? Le immaginette sacre per invocare chissà che cosa, quali grazie da Berlusconi. Questa è la mia idea.